Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Io quando stavo sul molo e vidi arrivare quella nave con migliaia di persone, erano circa 18.000, pensai ad alta voce insieme a un collega: ma tu, dico, immagina se succede qualcosa del genere all'Africa. Sta succedendo, dopo 20 anni sta succedendo. Quello che Nicola Montano 20 anni fa temeva, ora sono in tanti a dirlo. Davanti agli sbarchi a Lampedusa, davanti alle fughe in massa dal Maghreb in rivolta. È come l'Albania, ripetono, ma quasi sottovoce, politici e osservatori. L'Albania, ossia l'arrivo di migliaia e migliaia di persone 20 anni fa esatti. Sulla banchina del porto di Bari, ad occuparsi di una delle prime emergenze immigrazione, c'era Montano, poliziotto di frontiera per 40 anni. Nel mare, ad avvicinarsi verso le coste italiane, c'erano navi come la Vlora, stipate di uomini e donne in ogni angolo. E allora, visto che si evoca l'Albania, Storiacce di questa settimana torna a bordo della Vlora col comandante Alim Milaci. In quel giorno, 7 agosto, ho visto che in porto avvicinarsi tanti persone, ma non sapevo che devo iniziare un nuovo esodio. La nave era tornata dal lungo viaggio dal Cuba con 10.000 tonnellate di zucchero. La nave era in avaria perché era tornata dal lungo viaggio, ma le gente vogliono salire a bordo per trovare una migliore vita, sì. Hanno salito dalle cave di Ormeggiati, le turme delle gente erano di più di 15.000 persone a bordo. Lei non voleva partire, la costrinsero a partire? Sì, tante persone mi hanno costretto a riparare la nave. Ho parlato con primo meccanico e lui mi ha detto che è difficile, ma dobbiamo fare qualcosa per riparare, perché tante gente vogliono andare in Italia o altri paesi europei, ma era impossibile per altri paesi perché la nave è in avaria, acqua dolce finisce in 2-3 ore, alimentari non c'è a bordo, molte persone con bambini, militari, donne mi hanno forzato per far partire dalla nave. Come l'hanno forzata? La minacciavano? Era un terribile situazione. Sì, anche con armi, perché c'erano tante gente con armi a bordo, anche militari, che hanno buttato anche le armi in mare durante il viaggio. Una delle persone con coltello mi ha messo il coltello in gola. Fai partire dalla nave o ti uccidere. E quindi lei fu costretto a partire con una nave così carica di persone, una imbarcazione che era anche in avaria e che è un po' passata alla storia come il simbolo dell'arrivo degli sbarchi degli albanesi in Italia. In questi giorni in Italia ci sono tanti arrivi di immigrati dalla Tunisia a Lampedusa. Io ho visto in TV, in quel tempo non c'era controllo, anche il governo non ha fatto niente per fermare quel esodio. Durante quel viaggio ci furono dei momenti di tensione, ci furono dei momenti in cui lei pensò che la situazione le sfuggisse di mano, che non riuscivate ad arrivare in porto, che sulla nave scoppiasse una rissa? Durante il viaggio, prima, appena la nave parte da Durazzo, io ho deciso per andare in Brindisi, perché è il porto più vicino del Durazzo. Ho contattato con la capitaneria del porto di Brindisi, ma mi hanno detto che in Brindisi non potete entrare perché è un porto militare, e hanno deciso per procedere in Bari. In momento che abbiamo cambiato invertito la rotta per andare in Bari, a mattina ho visto una nave militare, ho comunicato con il comandante della nave e lui deve fermarmi per non entrare in porto. Ma io non posso fare niente perché comando la nave come navigatore, non comando le gente a bordo, siamo irritati e vogliono entrare in porto. Finalmente siamo entrati in porto di Bari. Immagino che sia stata dura anche riuscire ad avere una comunicazione. Molto drammatico quel viaggio, perché con di più di 15.000 persone a bordo, una nave trasporti anche con carica a bordo circa 3.000 tonnellate di zucchero, e tutto l'ambiente della nave erano in pieni, coperta anche in antenna del radar, in tutte le antenne, in derricks, in tutte le attrezzature della nave. Era in pieno. Era pienissima e quindi non c'era proprio lo spazio neanche per un movimento. Se fosse scoppiata una rissa lì era una strage. Se c'era una fiamme, era terribile, ma siamo stati fortunati che non succedere niente in quel tempo. Le autorità italiane cercarono di fermarvi all'inizio, però poi vi fecero entrare. Sì, ecco, che cosa li fece cambiare idea? Tornare la nave indietro non era possibile. Immediatamente io era uccidere delle persone. Chi erano quelle persone che erano a bordo della nave e che volevano arrivare in Italia e che sono arrivate in Italia? Avevano deciso di assalire la vostra nave perché era quella che stava arrivando allora nel porto? Le persone che hanno venuto in Italia in quel tempo erano persone normali, erano per venire in Italia per un miglior vita. Donne, bambini, tutte le persone che sono venute dalla strada hanno capito che il nuovo esodio sta inizio, tornati hanno abbandonato il loro ufficio, lavori e sono venuti in porto per andare in Italia, per venire in Italia. Lei non ci ha mai pensato di venire a vivere in Italia? Mi hanno offerto in quel tempo vivere in Italia, ma volevo... Voleva restare nel suo paese. Siamo costretti per vivere in Albania, anzi che la situazione in Albania non è cambiata. Non solo i numeri e le caratteristiche storiche, ma anche i piccoli gesti della gente. Davanti agli sbarchi di Lampedusa, Montano, poliziotto di frontiera, rivede se stesso sulla banchina del porto di Bari 20 anni fa. Mi è saltato subito agli occhi è stato il fatto che i nordafricani che vedo arrivare alzano la mano con l'indice e il medio aperto per segno di vittoria, come facevano gli albanesi quando arrivavano da queste parti. Quel gesto lì che ho visto fare da migliaia di persone. Migliaia di persone che arrivavano in Italia facendo il segno di vittoria, allora erano albanesi, oggi sono tunisini. Un'altra similitudine può essere la vicinanza che c'è tra le coste pugliesi e l'Albania e Lampedusa e la Tunisia. 70 chilometri di mare tra la Tunisia e Lampedusa, l'Albania è 80, quindi sì, la vicinanza certamente che porta la gente a fare l'avventura di un viaggio comunque pericoloso in quelle condizioni. Pericoloso, ma anche il fatto che arrivino in condizioni di salute abbastanza buone è un segnale del fatto che ne continueranno ad arrivare tanti. Io credo di sì, così come accadde in Albania che la gente scappava dal regime dell'epoca, così sta succedendo la stessa cosa agli africani. Io quando stavo sul molo e vidi arrivare quella nave con migliaia di persone, erano circa 18.000, pensai ad alta voce insieme a un collega, ma tu dico immagina se succede qualcosa del genere all'Africa, sta succedendo, dopo 20 anni sta succedendo. In questi giorni di sbarchi continui, il comandante della Capitaneria di Porto di Lampedusa ovviamente ha lavorato giorno e notte, si è ritrovato un po' lei stesso, ci racconti un po' ecco che cosa riguardando queste immagini di oggi le ha richiamato anche il suo lavoro all'epoca quando arrivavano sulle coste pugliesi le navi dall'Albania. La differenza che sto notando è che noi comunque qui a Bari eravamo insomma un bel numero di persone a poter fronteggiare il fenomeno. A Lampedusa, a quanto mi risulta, a quanto vedo, è ancora sola con pochi uomini. Quali furono le principali difficoltà per lei, per voi? All'inizio eravamo pochi, poi in giornata comunque arrivarono molti rinforzi da Roma e venne persino il capo della polizia, Vincenzo Parisi, ad amministrare così, diciamo così, l'emergenza. Si è fatto servizio notte e giorno di continuo, sotto il caldo agostano, insomma, potete immaginare com'è stato difficile. Per noi, e comunque ricordo anche le sofferenze della gente che era arrivata, gente che sveniva, donne incinte che stavano male, bambini assetati, sono stati, diciamo così, momenti veramente difficili. Momenti che lei ora rivede, diciamo, ripercorrendo e ascoltando le notizie che arrivano da Lampedusa. Ecco, non arriva una nave grande come fu la Vlora, ma arrivano delle imbarcazioni piene di passeggeri, ma non così grandi. Secondo lei questo è un segnale del fatto che continueranno? Secondo me sì, ma è il fatto che sono imbarcazioni leggere e secondo me è dovuto al fatto che comunque il fenomeno, diciamo così, è governato anche da qualche soggetto criminale che comunque del fenomeno ci guadagna. E se invece dovesse accadere una cosa tipo Vlora in Tunisia o dalla Libia o dal Marocco, non lo so come, o dall'Algeria, se la gente prendesse d'assalto le navi, come è successo con la Vlora, tante altre navi albanesi che giunsero in Italia nell'agosto del 91. Secondo lei è una possibilità concreta? Se le rivolte che sono cominciate dovessero continuare in certo modo, io penso che poi può darsi che l'esasperazione porti alla gente a fare anche questi tipi di cose. Lei in questi 40 anni di lavoro da poliziotto di frontiera, di arrivi di migranti di vario tipo ne ha visti proprio tanti e quindi in qualche modo ha chiaro la percezione di quando e del perché la gente può decidere anche così in massa di mettersi in viaggio. E nei racconti che fanno i tunisini di questi giorni, lei rivede qualche aspetto anche dei racconti che facevano gli albanesi all'epoca oppure no? Beh sì, i tunisini nominano la parola libertà molto spesso, no? Lo facevano gli albanesi tranquillamente prima. Per libertà loro magari intendono anche una posizione migliore di vita e quindi è un fatto, che è un desiderio che non possiamo sopprimere. Nel caso in cui questi gruppi cominciassero ad essere riportati in patria, questo farebbe desistere le altre persone? No, secondo me no. Nonostante noi avessimo rimpatriati quasi tutti gli albanesi arrivati col Vlora e con altre navi, poi la spinta alla frontiera c'è stata sempre del ritorno in Italia. E in Albania poi sono entrati in scena i gommoni, la criminalità, il contrabbando e tutto il resto. La Puglia ha subito, diciamo così, un cambio, l'economia criminale dal contrabbando di sigarette è passata al contrabbando del clandestino. Altri particolari e retroscena di queste interviste sugli sbarchi li ritrovate sull'audioblog di Storiacce. Ciao, scrivetemi a sabato.